Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Va ora in onda lo spettacolo Di chi è la terra, ballata per Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto, di Citoni, Giordano, Massimi, Veruggio, con Daniela Giordano e Danila Massimi, che sarà in scena a Roma al Teatro Belli all'interno della rassegna Diritti al Belli il 28 e 29 marzo 2019. Buon ascolto. Quello che vedete è uno spettacolo che potrebbe avere delle informazioni nuove, e allora prima di iniziare ci piace informarvi di alcune cose, perché così poi lo spettacolo lo avete modo di seguirlo e percepirlo meglio. Non tutto il grano che si produce diventa poi il nutrimento, si produce per nutrimento. Molti grani adesso sono grani, insomma cereali, vengono destinati a un fine diverso, quello di diventare biocarburanti o bioplastiche. Questo fa sì che i grani abbiano cambiato anche nome e adesso si chiamino flex crops. Flex crops, insomma, una parola inglese dice appunto flessibili, cereali flessibili, flessibili a essere utilizzati in un modo differente. Ovviamente per produrre tutto questo biocarburante, questa bioplastica che a noi ci fa sentire che sembra che insomma il nostro pianeta lo curiamo in un modo migliore, che è stato fino a qualche anno fa, ovviamente ha bisogno di grandissime e vastissime aree dove poter coltivare queste grandissima produzione, e queste grandi aree vengono prese in luoghi dove ci sono vaste aree, e quindi stiamo parlando dell'Africa, stiamo parlando del Brasile, e questo fenomeno si chiama land grabbing, letteralmente accaparramento di terra. Quello che succede è che in realtà le popolazioni che vivono in questi luoghi da sempre vengono in buona parte deportate o comunque spostate forzatamente dai luoghi di origine, e che poi qui insomma noi coltiviamo quello che ci serve per produrre più plastica e più carburante. Non c'è una soluzione, insomma, al momento non ci sono tesi, ma sentiamo che cosa ci dicono stasera Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto. Buono spettacolo. Ti parlo dal mio centro, non ti vedo, ma ti sento, tu mi strazzi, mi condanni, poi negli anni conti danni. Sono terra che ti parla, che non smette di subirti, di politiche di merda, qualche cosa provo a dirti. Non ascolti i miei consigli se mi incazzo te la pigli, non ascolti i miei lamenti, non ascolti, stringi i denti, t'ho cresciuto, t'ho pasciuto, dal centro grido aiuto, da mangiare c'è per tutti, c'è un tesoro e me lo butti. Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi? Land grabbing. Di chi, di chi? Di chi terra. Di chi? Di chi? Flex Crops. Sento addosso questa grande missione per la quale sono nato. Ricordo mia mater, mater B, emozionata, piena d'amore, che mi disse quando nacqui: figliolo, i tempi sono maturi. Le menti consapevoli si rivolgono alla tutela dell'ambiente. Si sono sciolte le calunnie del passato. La modernità guarda a noi come dei salvatori. Porta con fierezza il nome della nostra famiglia nel pianeta. E ora va, figlio mio. Fatti valere e conquista il mondo. Sono un prodotto del pensiero verde. Mia mater B aveva ragione. Sono biocertificato, ecologico e antigoccia. So di appartenere a una grande famiglia. Siamo tanti ormai. Siamo i buoni. Piatto, forchetta, bicchiere, giocattolo, bastoncino cotonato, pannolino, packing, e io, sacchetto. Siamo tanti ormai, siamo la vera modernità. Ma come in tutte le grandi famiglie, non ho avuto un'infanzia facile, però. Troppo. Competizione. Avrei voluto essere figlio unico. Mia sorella, pinna biodegradabile, si dava le arie perché a lei davano premi internazionali. Hai saputo, sacchetto? No. Mi utilizzano come penna ufficiale al primo summit internazionale sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile dell'ONU a Rio de Janeiro. Era il 1992. Mia mater B era orgogliosa di lei e questo mi faceva incazzare. Mater B mi consolava, diceva che per lei eravamo tutti uguali. Ma siete bioplastiche innovative, tesoro. Vi ho creato ed educato pensando con ottimismo al futuro. Ognuno di voi troverà il suo posto nel mondo. Devi avere pazienza. Lei, che è una leader delle tecnologie proprietarie nel campo degli amidi, delle cellulose, degli oli vegetali e delle loro combinazioni, ci infondeva la fiducia che noi bioplastiche abbiamo caratteristiche e proprietà d'uso che sono del tutto simili alle plastiche tradizionali, che sono cattive. Ma poiché siamo biodegradabili e compostabili, noi siamo buone e ci moltiplicheremo fino all'eternità. Sì! Io sono biodegradabile e compostabile al 100%! Ai sensi della norma europea UN 13432, il più importante riferimento tecnico per i produttori di materiali, le autorità pubbliche, i compostatori, i certificatori, i consumatori. Il mio segreto è che sono un vegetale, multiculturale, cellulosa, glicerina, fillers, naturali, abiti, tutti ottenuti da varie colture e tutti estratti da grandi piantagioni. Sono naturale. Sono sinonimo di buono. Devo tutto alla mia grande matermi. Non faccio per vantarmi, ma noi bioplastiche siamo la vera rivoluzione del millennio. Parola di Sacchetto. Io, figlio di Materbi, ottimizzo la raccolta e la gestione dei rifiuti, riduco l'impatto ambientale e contribuisco allo sviluppo di sistemi virtuosi con vantaggi significativi lungo tutto il ciclo produzione, consumo, smaltimento. Cos'altro dire di me? Grazie alla filiera dell'organico, il mio lavoro principale, ho creato centinaia di posti di lavoro della raccolta differenziata. Ho ridotto le emissioni di 7,7 milioni di tonnellate. E questo non lo dico io, lo dicono degli studi della Bocconi. Tutti parlano di me. Chiunque ami la natura mi cerca, mi sceglie, mi esige. Nasco come frutto della terra e ritorno alla terra. Dicono anche che riduco il consumo di energia e di risorse non rinnovabili e completo un circolo virtuoso. Le mie materie prime di origine agricola, Santa Mater B, che mi hai fatto così, tornano alla terra attraverso processi di biodegradazione e di compostaggio senza il rilascio di sostanze inquinanti. Non avevo capito quale perfidia si nascondesse dietro queste verdi parole. Ho vissuto i miei primi 10 giorni di vita in totale, assoluta, olimpica grandezza, nutrendo il mio ego bioplastico, gli orgogli e trionfi verdi ecosostenibili. Immaginatevi, dunque, il mio sconforto e la mia disperazione quando mi sono visto sparire, sciogliere, vanificare per una goccia d'acqua, per un po' di umidità. Disfatto in tutti i sensi, una strage, una macerazione di massa. Quando c'era lui, Mio cugino! Sacchetto di plastica! Le cose andavano in modo differente! Allora si cambiava l'immagine del mondo. Le rive dei fiumi, per esempio, perdevano il loro naturale aspetto selvatico e inospitale per diventare un trionfo di ghirlande, lenzuoli, bandierine di plastica aggrappate come festoni agli alberi e alle rive. Che spettacolo doveva essere! Mio cugino! Sacchetto di plastica. Era uno che non era facile far sparire. Degradabile in 100, 1000 anni. Ma chi? Chi? Chi lo può dire con certezza? Nessuno ha vissuto abbastanza per raccontarlo. Magari sono 10.000 gli anni. Un'era. Quando c'era lui, mio cugino, noi sacchetti di plastica facevamo paura. Eravamo in grado di uccidere degli squali. Non c'era da scherzare con noi. Che bei tempi. Oh, vorrei tanto galleggiare anch'io nel mare. Attraversare gli oceani. Portato dalle correnti. Uccidere qualche squalo, magari una balena. E arrivare alla mitica isola di plastiche galleggianti nel Pacifico. Oh sì! Sì! I miei cugini! Oggi reietti e messi al bando sono stati capaci di creare un'isola che raccoglie e dà una casa a tutte quelle plastiche che dopo viaggi interminabili, terribili, riescono a raggiungerla. Un sogno per tutti. Ma in realtà c'è anche un'altra versione. Che l'isola sia soltanto una copertura. Che i sacchetti di plastica siano in assemblea permanente, in stato di agitazione, pronti in qualsiasi momento a riconquistare il mondo. Ma il mondo oramai lo abbiamo conquistato noi. Le bioplastiche, con la simpatia e la collaborazione di tutti. Più terra alle bioplastiche! Ogni giorno nuovi successi, nuovi territori sono a noi dedicati, territori sempre più vasti, intere nazioni, la domanda di noi continua a crescere, più terra alle bioplastiche! Come dice Mater B, noi siamo i buoni, il mondo è nostro! terra. Di chi? Di chi? Flex Crops. Sulla terra, nelle mani di un manipolo di isterici, discutono di me nei loro club un po' esoterici. Che è giusto che compriate le pere in Argentina e gli mandiate in cambio usato dop da palestrina. Spedite al macero quintali d'uva fogarina, purché importiate fusti di lambrusco dalla Cina. C'è spazio per chiunque senza fare complimenti nel mercato dominato da affaristi impenitenti. Ti intossico, ti inquino, ti strino come un fusibile, ti propino il propano verde biodegradabile. Slow food. Perché alla Mastercard. Fast food. Perché alla Social Card. Slow food. Perché alla Mastercard. Fast food. Perché alla Social Card. Imprenditori avidi e politici mitomani inquinano, poi lucrano anche sulla green economy. Rotola, schizza, si punta come trottola, vola, si impenna, s'abbatte come notola. La quotazione odierna borsa agroalimentare, il trend dell'import Expo su scala internazionale. Perché oramai è inutile rivolgersi al passato, siete abili arruolati dalla legge del mercato, pronti a trangugiare fragole a Natale. Clorate, colorate, profumate, antiossidate, coltivate agli antipodi, brillate con con valve belle rosse rutilanti come fari. Più che una Macedonia mi sembra una Ferrari. Di chi? Di chi? Di chi è la terra? Di chi? Di chi? Land grabbing. Di chi? Di chi? Di chi è la terra? Di chi? Di chi? Flex Crops. Homo behi, homo begaiere, homo behi, homo begaido, homo behi, homo begaido, calabagna behi beido. È già passato un anno. È arrivata di nuovo la fine dell'estate. Ah, sento il profumo delle piogge che arriveranno a bagnare la terra. Finalmente. L'oro dei campi sarà raccolto e la terra nuda berrà gli scrosci dell'autunno, e il verde tornerà a coprire i campi. Custodisco un cuore di granella, chicchi gialli come il sole, che si aggrappano a me in questi ultimi attimi di abbraccio. Mi aspetta la grande festa del raccolto. Che le ya. Sarò bella come tutti gli anni. Sarò la regina della festa, piena dei miei frutti, cullati, amati, cresciuti in me e ora maturi per affrontare il viaggio, per andare incontro al loro destino. Ancora pochi attimi e cesserò di essere pannocchia e tutto quello che sono sarà di nuovo chicco. E un nuovo ciclo inizia. Il villaggio si popola alla raccolta. Si torna a casa, si torna alla terra. Le famiglie si riuniscono, le donne preparano con cura da giorni cibi speziati e dolci. Oh, l'aria e intrisa del profumo di pane cotto sulla pietra rovente. Si preparano cibi speciali per la festa del raccolto, perché arriveranno da lontano i parenti e bisogna fare bella figura. Si preparano cibi speciali perché tornano i figli lontani e avranno fatto un lungo viaggio e saranno stanchi e avranno fame. Ognuno viene a dare una mano nei campi e tutti sono qui per qualcuno, chi a salutare i genitori, le sorelle, i fratelli, chi ad abbracciare i parenti. E poi tutto si colora, stoffe dai toni sgargianti, tinte per l'occasione, sono indossate dalle donne di tutte le età o sventolano come grandi bandiere fuori dalle case, perché la mia festa è anche la festa dell'amore e tutto e tutti si fanno belli per attrarre, e le giovani lo sanno che la festa del raccolto è anche la loro festa. Dopo la mietitura ci si abbandona al ritmo delle danze e la musica entra nei corpi e li seduce e gli occhi brillano nella notte come riflessi di luna nell'acqua. E ci si innamora. E le giovani coppie fanno progetti per il futuro, mentre gli adulti raccontano storie di raccolti e di semine. Oh, oh, come mi piace, questa abbondanza. Mi strugge il pensiero dell'addio, ma sono ricca di tutte queste voci, dei suoni, delle risate, delle corse dei bambini. Tra i fusti del mio stelo mi sto preparando. Oh, il vento mi porta il canto e la musica. Sto per aprire il mio cuore e liberare i miei semi perché diventino nutrimento e vita che si rinnova. La festeggiata tra poco lascerà la festa. È un rito che si ripete sempre uguale. Eppure ogni anno noto qualche differenza. Cambiano gli abiti, i discorsi, le pettinature, i canti. No, i canti sono sempre gli stessi, da sempre. Che lei ha. Di mais piace cantare, protetti dalla notte, dal fruscio delle foglie, quando il villaggio è ebbro e addormentato. Sì, anche noi cantiamo e facciamo bellissimi cori, mamma Pannocchia e figli, che lei ha. Oh, sì, Sì, ogni tanto c'è qualche piccola stonatura. Il concerto è il preludio al nostro dirsi addio. Addio per questa stagione. Ma ci ritroveremo qui tra un anno, quando da Chicco sarò tornata a essere Pannocchia. Mi gira la testa. C'è un trambusto dentro di me. Qualcosa che mi sconcerta e mi spinge sulla via del non ritorno. Voci da dentro che agognano cambiare il destino. Sono i miei figli, i miei frutti, il mio futuro. Vogliono cambiare. Sono già cambiati. Sono stati irretiti, manipolati, plagiati. Gli fanno credere che c'è uno scopo più alto che essere nutrimento, essere biocarburante. Ora mi guardano con distacco. Si fanno chiamare flex crops e partono così, senza voltarsi indietro, per unirsi all'esercito di semi di girasole, di grano, di colza, di barbabietola, di canna da zucchero, di palma d'olio, diventare biocarburanti, finendo poi mischiati a benzine, a gasolio, che neanche lo vogliono. Il biocarburante puro. Perché dovrebbero cambiare i loro motori. Il villaggio tace. Il villaggio non c'è più. Non sento più l'odore del pane cotto sulla pietra rovente. Non ci sono più i bambini che corrono tra i fusti del mio stelo. Non ci sono canti. Non c'è musica. Come faranno ora a innamorarsi le giovani donne? Chi le farà danzare? Chi racconterà della semina e del raccolto? Sono solo una pannocchia. In una piantagione della quale non vedo i confini. Insieme a milioni di altre pannocchie come me, in attesa del raccolto. Non sarò la festeggiata, perché non c'è più un villaggio che si prepara al raccolto. Ora arriveranno i macchinari col rumore assordante dei loro motori. E dopo sarà solo silenzio. Di chi è la terra? Di chi? Land grabbing. Di chi? Di chi è la terra? Di chi? Flex crops. per la prezza, per la brina, per la vita che continua, per il vento, per il mare. Smetti, cambia, prova a stare nel tuo centro per un giorno, con il fuoco tutto intorno, con la gioia, la paura dell'eterno che ti usura. Prova a stare nel tormento quando tutto scorre lento. Prova a smettere di andare contro tutto il tuo sentire. Controverso, controvena, mi raggiunge la tua pena. Tu mi inquini di dolore, fai del niente il tuo candore. Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi? Land grabbing. Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi? Flex crops. Slow food. Perché la Mastercard? Fast food. Perché la social card? Slow food. Perché alla Mastercard? Perché alla social card? Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi? Land grabbing. Di chi, di chi? Di chi è la terra? Di chi, di chi? Flex crops. E fino a 5 minuti fa non sapevo come cominciare. Che sono un po' in imbarazzo, eh? Poi mi sono detto, via, togliamoci questo dente, così poi il resto sarà tutto in discesa. Allora, allora sì, io ve lo dico, Io quel giorno dell'estate del 1935 c'ero a Sabaudia. Com'è allora? Ho detto Sabaudia. Ma le città di fondazione del periodo fascista, no? Ma che non ve lo ricordate, quel cinegiornale dell'Istituto Luce, dove Mussolini a torso nudo lavorava nei campi, eh? No, non fate gli ignorri, eh? Che c'eravate anche voi, italiani, eh? Eravate tanti, beh? Io non solo ci stavo, ma ero anche il protagonista della giornata, io e milioni dei miei fratelli chicchi di grano. L'Italia fascista avanza a grandi e baldanzosi passi sulla strada dell'autarchia alimentare. Umiltà, giovinezza, viva Dio, viva libertà. Umiltà, giovinezza, viva Dio, viva. Premessa alla costruzione della più grande infamia della storia italiana, la guerra di aggressione insieme alla Germania nazista. Il popolo italiano avrà quindi il pane necessario alla sua vita, ma se anche gli fosse mancato, non si sarebbe mai, dico mai, mai, mai, mai, mai, mai piegato a sollecitare un aiuto qualsiasi dalle cosiddette demoplutocrazie. Umilezzo, umilezzo, viva l'ero, umilezzo, umilezzo, viva l'ero, viva. Battaglia del grano l'hanno chiamata. Disgraziati. E ci hanno messo a tutti noi, chicchi di grano, un metaforico elmetto in testa. Non glielo posso perdonare. E non è giusto, eh? Io sono nato per fare la festa, non la guerra. Ecco. No, e io ve lo volevo dire prima, perché... Non volevo che qualcuno si alzasse e pensando di mettermi in difficoltà, ma tu che dici che quella volta lì? L'ho detto io per primo, ecco. No, lo volevo dire prima che si pensasse che io sto salendo sul carro del vincitore, eh? Insomma, era meglio parlarne prima che certe atmosfere tornassero di moda, eh? Ah, dite che sono già tornate di moda? Ah, sì? Ah. Vabbè, io... Volevo dire un'altra cosa, la questione è un'altra. Dico, pensate che mi facesse piacere partecipare a quell'orgia di retorica rurale e militaresca? Io ci dovevo stare per forza. Oh sì, il dittatore ti porta sempre alla catastrofe, ma una cosa va detta, conquista il potere perché di comunicazione ci capisce qualcosa. Il dittatore vuole essere il corpo stesso della nazione e vuole che la nazione si identifichi con il suo corpo. E naturalmente la cosa più naturale è passare dalla pancia. Ed ecco che spesso e volentieri io vengo convocato quando si vuole arruolare la pancia del popolo. Sì, perché io non sono semplicemente un vegetale, no, io sono una figura retorica. Anzi, più di una, sono una metonimia, una sineddoche, un'antonomasia. Sì, perché io sono il cibo, la vita stessa. Sono, ero, non lo so più. Oh, cavolo, se vengo da lontano. Eh sì, è che dove vado io non lo so più. Io ho fatto smettere alle donne e agli uomini di vagare come nomadi. Gli ho fatto costruire una casa attorno a un fazzoletto di terra. Ecco, ma oggi da questa parte del mondo tutti mi mangiano, mentre sono sempre di meno quelli che mi coltivano. Dico, fatemi capire voi. Vi prego, come può essere? Dico, mettete una rotella in più al lavoro nella vostra testa mentre arrotolate una forchettata di spaghetti. Spiegatemi, io giaccio inerme in depositi che traboccano di me, dove la gente le studia tutte per cercare di mangiarmi sempre meno e spesso senza riuscirci, mentre latito dalle tavole di altre regioni del mondo dove abita quella parte di umanità per cui la dieta ipocalorica è una condanna a morte. È la pancia della nazione. È vuota da quelle parti. E poi li vediamo arrivare qui rischiando la vita per conquistare quello a cui ognuno avrebbe diritto, un tozzo di pane. E qualcuno si inalbera. Ma casa nostra vogliamo comandare noi! Ma perché loro comandano a casa loro? Sì, perché il paradosso del paradosso è che proprio laggiù sta la maggior parte della gente che di mestiere fa il contadino. Solo che sono sempre di più quelli che prima mi seminano, mi danno da bere, mi crescono, mi trebbiano e alla fine non mi mangiano. Mi vedono partire, così, per chissà dove. Sì, perché adesso sono una... commodity. Eh? De che? Sì, l'ho detto anch'io la prima volta che mi hanno chiamato così. Commodity. Non avevo mai sentito questo nome. A me mi avevano sempre chiamato Chicco di grano. Ma niente paura. Io sono un ragazzo sveglio. C'è Wikipedia. Commodity. È un termine inglese che indica un bene per cui c'è domanda, ma che è offerto senza differenze qualitative sul mercato ed è fungibile. Cioè, il prodotto è lo stesso indipendentemente da chi lo produce, come per esempio il petrolio e i metalli. L'equivalente di commodity in italiano è bene indifferenziato. Ecco. Allora è questo. Dico senza offesa per gli amici metalli, ma io pensavo di essere diverso. Ero perfino diverso dentro me stesso. Ero Saragolla, senatore Cappelli, monococche. Ne avevo tante e tante di varianti, tanti nomi, in ogni terra dove nascevo un po' diverso. L'unica cosa che restava uguale dappertutto era lo scopo per cui venivo al mondo. Dare da mangiare, essere vita per tutti. Forse la facevo un po' semplice, eh? Lo so. Ma è che le cose nel vostro mondo umano sono un po' più complicate. Un po' più complicate di così. Perché quello che c'è potenzialmente per tutti, passando al vostro vaglio, diventa per alcuni molto, per molti altri poco e per quasi tutti niente. Il fatto è che voi le cose le complicate a tale punto che vi dimenticate anche dove è cominciata la complicazione e perché. E allora alzate le spalle e dite, così, che ci vuoi fare? Ma io mi sono fatto un po' quest'idea, parlando terra terra, perché d'altra parte non potrei parlare diversamente, che i pochi fanno a me gli occhi, please, e convincono tutti gli altri che le cose non vanno come loro vogliono che vada, no, ma vanno così, e come devono andare, come dire, è una legge di natura, e no! E no! Che se c'è una cosa che conosco è la natura, per favore. Le scelte che fate voi sono soltanto le vostre, la natura ci mette del suo, ma non decide chi vince e chi perde tra di voi, nemmeno su un campo di grano, figuriamoci nella fabbrica, in strada, nell'ufficio e ancor meno quando la battaglia si sposta nella vostra testa. Sì, perché è lì che gli sfigati perdono per davvero. Dico, era obbligatorio? Naturale? Tenermi nei granai quando qualcuno aveva bisogno di me? Era obbligatorio pensare solo a crescere, a accumulare e non a distribuire? Mi avete drogato di chimica. Trasformato il campo stesso in una fabbrica di prodotti agricoli e il contadino in un operaio dell'agricoltura e sottratto la terra a chi ci aveva sempre vissuto sopra per farne una fabbrica sempre più grande. Avete rivoltato come pedalini persino i miei geni. Geni che siete! E tutto questo casino e non avete risolto neanche la fame nel mondo? E poi il tocco finale. Eh sì, perché adesso non sai più nemmeno che ci viene a fare qui sulla superficie della terra. Perché già ben prima di venire fuori, quando sei nella terra fredda, sei nella terra negra, qualcuno, qualche squalo in doppio petto ti ha già venduto nel futuro per fare di te qualcosa che a lui è indifferente. sono un bene indifferenziato. Fluttuo nello spazio virtuale dei mercati e quando atterro è capace che mi ritrovo a bruciare del motore di un SUV. Ma che ve l'ho chiesto io tutto questo? Ma prendetevela con qualcun altro, non con la natura. Ma tanto non mi ascolterete. Sono solo un chicco di grano. Però sognare non è vietato, né a me né a voi. Io ho avuto un sogno. E voglio dirvelo come fece quel tale là nel 1963. Io sogno che si possa ancora seminare, curare il campo, attendere che dia frutti, raccogliere e dare il pane agli affamati, che si possa farlo in modi nuovi e più efficaci, senza che questo sia il bene che otteniamo subito qui e che pagheremo dopo o un po' più in là, con la distruzione della vita. Io sogno che la domanda quanto affondi piano piano come il ricordo sempre più lontano di una brutta influenza e che le domande quale, come, da chi e per chi ne prendano il posto. Io sogno che i mercati colorati e chiassosi tornino a essere più importanti di quelli eterei e freddi che decidono del mio destino di chicco di grano, quelli che lo chiedono i mercati. Io sogno campi coltivati, gente che ci lavora con dignità, senza sfruttamento né dipendenze, terra a chi lavora e soprattutto terra a chi l'adora, cultura della terra e cultura nella terra, tavole imbandite, pane per tutti, condivisione. Io sogno, lo so, forse ho esagerato, ho volato troppo in alto, forse è che io, scusate, non gioco sul mio terreno. Io in realtà ho solo un sogno. Essere un chicco di grano. Terra, di chi, land grabbing, di chi è la terra, di chi, flex crops. Quota in borsa il pomodoro, taglia il costo del lavoro, vendi gli asset del carciofo, credi swap su Ravanello, ma che bello, bello, bello compitare questa strofa. Se qualcuno si ribella, si trastulla col buon senso e si immagina un sistema un po' diverso, si gingilla con la balla della bolla immobiliare, pensando addirittura che qualcosa può cambiare. La terra chi la abita, la cura, la lavora, obiettivo del millennio, il tempo giusto è ora, il grano agli affamati, cibo non carburante, uniamoci e spaziamo via quest'incubo inquietante. Non si può giocare in borsa sulla fame della gente. Produciamo per sfamare invece che far girare la roulette del consumismo, del profitto senza amore. Inventiamo un'altra storia, storia di un mondo migliore. Questo non è il nostro mondo, la nostra modernità. C'è sicuramente, certo, un'altra possibilità. Se qualcuno si ribella, si trasulla col buon senso e si immagina un sistema un po' diverso. Gingilla con la balla della bolla immobiliare, pensando addirittura che qualcosa può cambiare. Se si fa lo sghiribizzo di mandarvi a gambe all'aria, stai sereno e già in arrivo una guerra umanitaria. Boom! Slow food! Perché alla Mastercard? Fast food! Perché alla social card? Slow food!

in due festival, sia a Noida che a Mumbai. Ha vinto anche una migliore sceneggiatura e insomma mi fa piacere che in alcune parti del mondo, anche molto lontane, no? Però molto con una cultura cinematografica che sta veramente molto lanciandosi in modo competitivo sul mercato, questa riflessione sia stata accolta con questo riconoscimento, quindi sono molto contenta. Questa per noi del Teatro Belli, ricordo, il 28 e il 29, proporremo in due serate uniche sia lo spettacolo che il film, è in anteprima nazionale per il pubblico, insomma, e quindi aspettiamo tutti, ci si diverte, ecco, questo forse vale la pena dirlo, perché i temi sono molto seri, però la scelta della narrazione è una scelta volutamente leggera e accogliente, non è una lezione frontale, come non deve essere l'arte mai. E allora ricordiamo di chi è La Terra, ballata per Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto, uno spettacolo, una musica, un film a Roma, Teatro Belli, 28 e 29 marzo 2019, all'interno della rassegna Diritti al Belli. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, regista, attrice Daniela Giordano. Un abbraccio, grazie, e grazie, ci si vede a teatro. Ciao Daniela. Grazie, a teatro, ciao, ciao. L'agenda della settimana teatrale. Con l'attrice Irene Petris per parlare dello spettacolo Dead Dogs, che sarà a Roma al Teatro Argo Studio dal 26 al 31 marzo 2019. Irene, ben trovata. Ciao a tutti, ciao Federico. Lo raccontiamo brevemente? Non lo so. No, nel senso che a raccontarlo ha tutti gli elementi per essere una storia thriller, okay. Qualcosa che scompare, delle persone che arrivano dopo tanto tempo di assenza, qualcuno muore, ma in realtà di tutto si tratta tranne che di un thriller, cioè la trama è talmente agghiacciante, e agghiacciante nella sua semplicità, che non è quello, diciamo, il centro di interesse, poi soprattutto per quello che riguarda la nostra lettura. Ma proprio invece in quello che è un thriller, nel non detto, nell'essere una vicenda appunto molto quotidiana, che si svolge in un quotidiano, il tragico emerge proprio da questa quotidianità, nella comunicazione che non c'è tra le persone. L'autore è Jon Fosse, ci racconti un po' la genesi di questo spettacolo? Allora, Jon Fosse. Noi ci siamo già avvicinate con un'altra produzione per quest'autore, abbiamo prodotto 4 anni fa, mi sembra, Susanna, che era un altro testo inedito, e quindi diciamo abbiamo cominciato ad avvicinarci molto a lui, a studiarcelo, a leggerci diversi testi, soprattutto quelli che abbiamo trovato sì, tradotti in italiano ma anche in inglese. E diciamo che questo The Dead Dogs si era già un po' impresso nella nostra memoria allora, poi abbiamo scelto allora di produrre Susanna, e però diciamo che ce l'avevamo nel cassetto, che diciamo che continuava ad emergere, e allora abbiamo deciso di scrivere un progetto, di tradurlo in maniera diciamo puntuale, di lavorarci, abbiamo vinto la possibilità di residenza Forever Young alla Corte Ospitale, dopodiché abbiamo appunto partecipato a questo bando e abbiamo vinto a luglio dell'anno scorso, e quindi è stato un ottimo risultato, e adesso queste sono proprio le prime date, il primo giro di prova, diciamo. Abbiamo debuttato a Torino, che è stata la prima nazionale proprio del testo, a Cubo Teatro, e adesso appunto settimana prossima incominciamo le nostre repliche qui a Roma, al Teatro Argo Studio, dal 26. Cosa apprezzate della scrittura di Fosse? Allora, noi della scrittura di Fosse apprezziamo appunto il fatto che sia fatta su una parola anche graficamente precisa, ma una parola che è anche scarna, dove questa precisione di tutto quello che viene raccontato, dei personaggi come parlano, in realtà dica moltissimo del ritmo, ma nasconda tutto dietro le parole, cioè il tragico che è nascosto in quello che non viene detto. E questo è quello che sicuramente ci affascina di più, e anche io devo dire che insieme a te abbiamo appunto studiato, affrontato con gli attori. Io che ci sto anche dentro come attrice, chiede proprio come performer una grande centralità, una grande disposizione alla parola, una grande disposizione d'animo allo stare dentro a quello che è estremamente proprio scritto a livello ritmico, a livello di lingua, ma che in realtà in quello stare sposta tantissimo, anche proprio standoci in scena con il testo, ed è anche estremamente anche complesso. Non posso negare che ci siamo, diciamo, un po' sbattute la capoccia contro questo autore anche, questo si va detto. Ecco, in questo senso, su cosa avete centrato la messa in scena, anche penso rispetto se avete avuto come riferimento altre messe in scena della stessa opera? Allora, della stessa opera non abbiamo avuto altri riferimenti, anche perché appunto in Italia non era stato fatto prima e non abbiamo reperito appunto altre messe in scena. Quello che c'ha sicuramente, su questo devo dire l'intuizione della mia socia Tea della Valle, è quello di anche un po' scardinare, no, questa impressione che forse sia molto criptico, molto simbolico, ma di vedere quello che scrive anche una semplicità sui personaggi, che porta anche una comicità, ma una comicità nel senso di molto di essere molto umani, e che quindi ti fanno anche sorridere per la loro piccolezza. Quindi uno dei primi punti di partenza è sicuramente un po' calcare e capire meglio qual era la cosa che, anche leggendo, affrontandolo, vedendolo man mano incarnato negli attori, perché poi è una scrittura che ha bisogno di essere della presenza attoriale, di come poteva essere anche un po' sciolto all'interno di questa grafica molto, molto precisa. E abbiamo visto appunto che più volte ci faceva veramente sorridere di un sorriso profondo, molto sensibile. Irene, ci racconti anche un po' dell'esperienza della compagnia della Valle Petris? Allora, noi, io e la mia socia ci siamo conosciute anni fa, abbiamo lavorato insieme, abbiamo cominciato a lavorare in teatro, diciamo, con dei grandi registi, io come attrice e lei come assistente aiuto regia. La prima volta che ci siamo incontrate è stato con Massimo Castri, tanti anni fa, quella che era la mia prima produzione, quindi stiamo parlando del 2004. Poi abbiamo avuto altre occasioni di lavorare insieme appunto con altri, tra cui Aldi Fermani, Sandra De Rosa, però da subito è scattata sicuramente una sintonia tra di noi, detto anche a quello che ci piaceva vedere e quello che vorremmo vedere in teatro. E poi abbiamo cominciato a produrre piccole cose, e poi diciamo invece ci siamo impegnate. La prima nostra produzione è stata un ballo tratto dal romanzo Breve di René Mirowski, che siamo riuscite proprio a produrre e poi a portare in scena al Teatro delle Passioni a Modena e anche a Reggio Emilia, sì. E poi abbiamo appunto avuto questo stimolo su una commissione appunto su Jon Fosse, ricevere un test, quindi è nato Susanna 3-4 anni fa, e appunto ci siamo un po', diciamo, affezionate all'autore, di cui abbiamo anche scoperto appunto più cose di lui, diciamo, e quindi ci siamo proprio dedicate invece a questo, che devo dire che come noi, come appunto produzione indipendente, è stato insomma una bella impresa, anche perché appunto in scena siamo in cinque, abbiamo dedicato molto spazio al suono, alle musiche con cui abbiamo collaborato con Claudio Tortorici, Giulio Alcaro, che sono entrambi saci del Superbutta di Torino, quindi con un'attenzione particolare a quella che era la sonorizzazione di questa storia. E anche di ispirazione per me è stato molto importante un altro musicista sempre torinese, Paolo Spaccamonti, che è stato veramente una fonte di ispirazione. E poi abbiamo fatto

emerge poco in realtà la forza contemporanea del testo, e la recitazione scelta, voluta da Popolizio, un po' grottesca, molto molto caricata, secondo me non aiuta insomma il testo a uscire fuori per bene, però insomma è il mio giudizio e ognuno si faccia il proprio. E detto questo, allora, che altro si va a vedere? Appunto, si parla con la Giorgina Pilozzi per quanto riguarda il settimo cielo, che sarà India, i giganti della montagna, l'Eliseo di Lavi andranno avanti ancora fino al 31 marzo, così come Zero nella sala piccola, nel piccolo Eliseo di Massimiliano Bruno, ancora quest'altra settimana. Quindi insomma, i grandi teatri non hanno debutti in vista. Ti dico però che insomma sicuramente debutta il Teatro Vascello, che insomma fa parte, lo possiamo tranquillamente scrivere tra i grandi teatri, e al Teatro Vascello dal 27 al 31 marzo, e quindi da domani, Abitare la battaglia, le conseguenze del Macbeth, la regia di Pierpaolo Sepe, che porta in scena questo ragionamento sulla nascita del male, sull'insinuarsi nell'animo umano del male, il controllo appunto che ha della volontà, il conflitto tra l'uomo e appunto il male che si insinua. Questo è, diciamo, il campo in cui si sviluppa il Macbeth, e le conseguenze del Macbeth sono quelle che andremo a vedere dal 27 al 31 marzo al Teatro Vascello, regia di Pierpaolo Sepe. Poi andiamo alla Sala Umberto, dove da questa sera fino al 31 di marzo sarà in scena La Scuola delle Scimmie, un lavoro scritto e diretto da Bruno Fornasari, che viene qua con il sostegno, chiamiamolo così, ma l'idea, la produzione del Teatro dei Filodrammatici di Milano. Si tratta di un lavoro ambientato nel Tennessee del 1925, dove un professore supplente di biologia è professato per aver violato la legge che vieta l'insegnamento della teoria darwiniana a scuola. Oggi, Italia, nel 2015, un professore di scienze naturali torna ad insegnare nel suo quartiere di origine, ed è chiaramente su questo tema che si svilupperà il lavoro di Bruno Fornasari, con in scena anche Tommaso Amadio, e Sara Bertelà, anche vedo tra gli attori. Quindi Teatro Sala Umberto fino al 31 di marzo. Che altro andiamo a vedere? Fino al 30 marzo resta al Teatro Lo Spazio Divina per vocazione star, nello spazio di via Locri. E invece ti porto, Federico, anche vediamo un po', sì, al Teatro Guarticciolo, perché 28, 29, 30 marzo torna a Roma l'amico Gianfranco Berardi, che porta in scena Amleto Take Away, spettacolo che gli è valso il premio Ubu come miglior attore quest'anno, e che io ho visto, diciamo, in un altro contesto, ho visto un festival lo scorso anno. È un lavoro molto personale sull'Amleto e sui temi che l'Amleto sviluppa. Si tratta di un monologo appunto per Gianfranco Berardi, che cura assieme a Gabriella Casolari la regia di questo lavoro, ed è un viaggio attraverso i temi dell'Amleto nel rapporto tra uomo esteriore e uomo interiore. Che so, dell'Amleto potremmo parlare sicuramente di rappresentazione, no? Della rappresentazione esterna dell'uomo all'interno della società, e quindi la crisi interiore che l'uomo vive al cospetto dell'evoluzione del proprio divenire. Quindi andremo a vedere 28, 29 e 30 marzo al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ultimissime cose di cui ti parlo, sicuramente a Spin Time Labs andremo a vedere Margine Operativo. Domenica 31 Margine Operativo sarà Spin Time Labs, mi piace ricordarlo perché Spin Time è una delle poche cose che abbiamo questa stagione nuova e che cercano di sostenere un po' il territorio indipendente, e quindi va assolutamente sostenuto. Poi ultimissime cose, una è portarti al Teatro Argo Studio, dove andremo a vedere un testo di Jon Fosse. Jon Fosse è un drammaturgo norvegese, quindi è la settimana dei drammaturghi norvegesi, con Aria Nobel per la letteratura, tra l'altro, quindi è un personaggio particolarmente stimato, ma ti dico da un po' di anni ci sta lavorando la Corte Ospitale, soprattutto Tea Della Valle, che è la regista di questo lavoro. Non è la prima volta che Tea Della Valle si occupa di Jon Foster, io stesso ho visto già delle cose negli anni passati. La compagnia Della Valle Petris, perché c'è anche Irene Petris che fa parte del progetto ed è in scena insieme ad altri attori, al Teatro a Lugo da questa sera fino al 31 di marzo. The Dead Dogs è il lavoro del drammaturgo Jon Foster. Un uomo giovane uccide il suo vicino di casa perché il vicino di casa ha ucciso il suo cane. Violenza cieca che esplode nel quotidiano. Il perché di questo assassinio e il perché di questa volontà di vendetta reciproca, no, a catena, chiaramente tocca delle cose molto profonde che hanno a che vedere con la nostra comunità umana. Insomma, non è di tanti giorni fa la notizia una delle tante notizie, chiaramente, di attacchi terroristici ciechi e violenti come quello che abbiamo ascoltato in Nuova Zelanda la scorsa settimana. Quindi effettivamente Jon Foster va ad indagare qualcosa che appartiene all'uomo purtroppo da secoli e generazioni, come diceva Quasimodo, l'uomo del mio tempo, da quando il fratello disse all'altro fratello andiamo ai campi, cioè parla di Caino e Abele. Quindi effettivamente dice le generazioni di fino a oggi, lui parla della seconda guerra mondiale, ma purtroppo potrebbe dirlo anche oggi, hanno continuamente replicato gli stessi sbagli e compiuto gli stessi misfatti. Quindi questo è sulla base di questo che andremo a vedere dal 26 al 31 marzo la compagnia Della Valle Petris con The Dead Dogs al Teatro Argo Studio, con il testo appunto di Jon Foster. Ma probabilmente, Federico, lo spettacolo della settimana che non possiamo non citare è che da questa sera a domenica 31 marzo in scena Laura Giovinelli, Elio Germano porta assieme all'autrice Chiara Lagani, che conosciamo come autrice e attrice di la compagnia storica Fanny Alexander, un lavoro chiaramente giocato sull'omonimo lavoro scritto ed edito da Adolf Hitler, ovvero sì, Mein Kampf, la mia battaglia, un lavoro che va a toccare proprio i meccanismi della propaganda, i meccanismi che coinvolgono l'opinione pubblica all'interno di un discorso totalitario come quello che è stato appunto il nazismo nella Germania degli anni 30 e 40. Quindi questo assolutamente da non perdere, Elio Germano, la mia battaglia, Teatro Ambro Iovinelli, da questa sera fino a domenica. Anche se è tutto esaurito per tutte le serate, mi ripromettevo di sentire, siamo rimasti d'accordo con Elio per una chiacchierata al di là di queste date, insomma. Anche perché non se la sentiva di parlarne a ridosso per non svelare nulla. Anch'io ho provato con un'intervista, ma sì. Evidentemente non c'è modo per ora, magari dopo sì, sicuramente sarà. Ci sarà, spero, l'occasione, perché il progetto, da come è proposto, merita davvero l'attenzione anche dopo, insomma, la messa in scena. Allora, Simone, a chiusura ti segnalo Il deserto dei tartari della compagnia dei Masnadieri, che è in scena fino al 31 marzo allo spazio 18B. L'ho visto e a me è piaciuto, quindi mi fa piacere segnalarlo. Benissimo, benissimo, assolutamente andremo a valutare anche questo. Direi, Federico, che possiamo tranquillamente sentirci settimana prossima, ne parlando. Un abbraccio, ciao Simone! Ciao a tutti! Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.